Adesso è una curiosità mia, vabbè, io non sto seguendo niente del territorio ultimamente, ma la famosa tangenziale che dovevano fare qui è stata poi approvata, no? Non viene più fatta No, no, e. allora, lì è ormai 13 anni che ha avuto appunto l'opposizione dei territori, ricorsi, dei comuni, comitati, manifestazioni ed era stata anche definanziata per il 50% sostanzialmente, da 419 milioni che c'erano, che poi diventavano 489 milioni con i 65 milioni che ha messo la Regione Lombardia, ne sono rimasti 212. Perché il governo ha definanziato l'opera, perché l'opposizione ha pagato, perché abbiamo dilatato talmente tanto i tempi, attraverso i ricorsi che avevamo fatto, sono arrivate le mitigazioni, l'UNESCO che ha detto no, il Parco del Ticino che ha detto sì, però mi devi fare gli alberi, quindi ti faccio gli alberi, e i costi lievito, comunque per farla breve, definanziata. Una volta saputo che era stata definanziata, si sono tutti preoccupati qua. Si è preoccupato subito il sindaco di Vigevano, Abbiate Grasso dice che non è preoccupato perché lui c'ha il programma che dice che la strada non la vuole, però poi alla fine La vuole. ha votato per mantenere il parere che esisteva. Comunque alla fine si è ricompattato un fronte. Abbiate Grasso sta facendo anche un po' a scuola su questo, perché io non ho visto quasi mai, cioè, è la prima volta che mi capita di vedere. Cioè, ci sono i comitati che di solito si oppongono, no, alle cose. Qua è nato invece il comitato per il sì alla strada, con dentro tutti gli ex sindaci, sì, perché c'è dentro Alberti, Fossati, Ceretti, gli ex assessori che hanno Lazzaroni, Scotti, che c'è ancora Ferrari, tutti gli ex assessori che erano no, imprenditori, il Castoldi della BCS, no? Quindi pezzi grossi del territorio, e poi un po' di commercianti, un po' di giri, no? Hanno fatto un comitato per il sia con raccolta di firme, no? Soddisfazioni queste, perché vuol dire che venirli là a raccogliere le firme perché vogliono la tangenziale, perché le hanno tolti i soldi, no? Però è emblematico del fatto che la vogliono fare comunque, lo spingono perché venga fatta, perché non hanno idee alternative rispetto a questo territorio, perché comunque vuol dire 200-400 milioni di euro che arrivano per far lavorare, no? Un po' di cose così, però il movimento è ripartito con un po' di articolazioni Anziché diverse, però è valorizzare ripartito. il territorio che è verde, che ancora ci consente di vivere abbastanza una qualità di vita, Che come dire. poi questo qui sarebbe l'anello, il tassello dell'anello delle tangenziali esterne milanesi. Okay, c'era Brebemi, tangenziale esterna est, a Pedemontana, e questa qui sarebbe la tangenziale esterna ovest, quindi l'anello nel Parco del Ticino, Parco Sud, Poi e magari la dobbiamo anche pagare per poter probabilmente si dovrà sfruttarla, anche pagare, come la come la Brebemi. Brebemi. La Brebemi. Basta non farla. Basta non farla. Ah sì, no, certo. Però sai, perché noi non abbiamo, però, perché poi dopo diventa anche, cioè, per come vengono strutturate le strade, poi dopo la viabilità locale viene praticamente ammazzata, perché se deve andare da Cesano Boscone a Corsico di là, con le strade, perché lì sono tutte zone urbanizzate, quindi alla fine, no, però se vuoi andare da Cesano Boscone a Corsico rimanendo vicino alla tangenziale non riesci, perché sono svincoli e qui c'è il problema poi dell'utilizzo del territorio agricolo, che loro, aziende segate in due, proprio tagliate, attraversate, perché poi non è soltanto la tangenziale, ma ci sono tutti gli svincoli, compranari, sottopassi, sovrappassi, rotonde, la Boffalora Malpensa, non so se l'avete vista, no? Cioè, avete visto che sono rotonde, cioè rotondone, svincoli, rotonda sotto, rotonda sopra, cioè, sì. Con tutto il reticolo irriguo, no, anche qui uno dice patrimonio storico artistico della nazione, il reticolo irriguo che noi abbiamo in pianura padana, Abbiategrasso, sì. Cioè lo so io che sono terrone, no? Sì. Che non sono nato qui, ma però andate da qualsiasi, cioè, contadino, vi dice che quella comunque è una terra che così è grassa e fertile perché ha avuto un lavoro del 1200, nel 1300, nel 1400, nel 1500, sì, sì. Il naviglio, i canali, le rogge, che vengono completamente ribaltati.